Rassegna eventi. I migliori eventi della settimana a Firenze scelti da Radio Wombat per voi. Iniziamo da martedì 5 con l'evento Reclaim the Fields dal 5 al 10 febbraio. Brevemente, gli scopi dell'assemblea sono incontrarsi e scambiare informazioni tra le stelle, che sarebbero partecipanti alla rete, e i gruppi locali in merito all'ultimo anno. Scambio e dibattiti su temi che riguardano Europa e oltre. In Europa e oltre, accesso alla terra, sovranità alimentare, riproduzione e scambio di semi, lotte territoriali, buone pratiche, eccetera. Vedere a che punto è la costellazione Reclaim the Fields europea. Cosa è stato deciso l'anno scorso, con quali risultati, cosa bisogna fare per continuare e quali piani ci saranno per il futuro. Naturalmente offrire supporto per il gruppo locale ospitante, divertirci e fare amicizia. In tutto questo potete trovare maggiori informazioni su reclaimthefields.org. Se intendete partecipare e magari avrete anche bisogno di dormire, potete chiedere a Mondeggi scrivendo a mondeggi@inventati.org. Andiamo avanti con mercoledì 6. Presidio alle 9 di mattina davanti al Tribunale di Firenze, giù le mani dal diritto di sciopero. Il 6 febbraio il Tribunale del Riesame di Firenze dovrà decidere sulla richiesta di applicazione di 6 misure cautelari contro altrettanti militanti attivi nelle lotte che in questi mesi hanno visto lavoratori di diversi settori rivendicare e conquistare diritti e dignità a fronte di condizioni di sfruttamento, se non vero e proprio schiavismo. Si richiede per loro il divieto di uscire dal comune di Firenze e il divieto di uscire di casa dal 19 alle 8 di mattina, impedendo l'attività sindacale nella provincia di Prato. Tra di loro i due responsabili territoriali del sindacato e 4 militanti del progetto IAM e del collettivo universitario autonomo di Firenze. Quindi alle 9 di mattina presso il presidio del Tribunale di Firenze, mercoledì 6. Sempre mercoledì 6, questa volta la sera, nell'aula studio dello studentato gestito Ponte di Mezzo, alle ore 20:30 vi sarà la proiezione del film Il giovane Karl Marx. Passiamo a giovedì 7, in quel di Corsica 81, abbiamo il primo degli warm-up per l'ACC Meeting, che ricordiamo si terrà a Firenze quest'anno, verso metà maggio. Potrete trovare informazioni sul sito dell'ACC Meeting. Introduzione verrà fatta in Corsica 81 la sera dalle 18, se non sbaglio, a Tails. È un sistema operativo live che permette di aumentare sensibilmente la protezione della propria identità e dei propri dati personali mentre si utilizza un PC o si naviga in internet. La tecnologia non è uno strumento neutro a disposizione di tutti, può anzi rappresentare un potente mezzo di controllo. Per questo crediamo sia importante imparare come utilizzare determinati strumenti di protezione e di salvaguardia. Con questo piccolo tutorial vogliamo introdurvi a uno di essi. Esatto, l'iniziativa si svolge durante le aperture settimanali di Corsica e tra l'altro per tutto il giorno sarà possibile farsi installare Tails sulle proprie chiavette USB, che devono essere almeno di 8 giga, quindi se ne avete intenzione di farvi prenderle, portatemene capienti. Venerdì 8, Know Your Rights, inaugurazione sportello lavoro dello spazio Inchiostro. Non ti pagano lo stipendio? Te ne pagano metà fuori busta? Ti hanno licenziato dalla mattina alla sera? Oppure lavori persino senza contratto e ti sei stufato di stare sotto ricatto? Nessun problema. Finalmente viene inaugurata la Camera Popolare del Lavoro anche a Firenze. Con noi troverete sostegno gratuito, solidarietà e garanzie dell'anonimato. Intanto ti aspettiamo alla festa di inaugurazione. Viva! Viva! Non ci dicono a che ora, comunque sì, potete essere alle 6, alle 6, comunque cercatevi, c'è l'evento, esatto. O sul sito dello spazio Inchiostro. Serata invece al Next Emerson con concerti organizzato dal collettivo Nuovi Rumori e CSA Next Emerson. Ci saranno gli Zambra e i Tommy di Pistego. Zambra, paesaggi sonori e periferia, freschi di uscita della nuova fatica, presentazione del loro nuovo album. Tommy Deep Stigo, terrorismo melodicamente controllato da Roma. Sabato 9 febbraio, il corteo studentesco Le scuole crollano, noi no. Assembramento alle ore 9 in piazza Santa Maria Novella per un'edilizia scolastica sensata e contro il decreto sicurezza nelle scuole. Chi non ha nulla da temere non ha problemi a vedere una divisa. Cani antidroga o videocamere fuori dalle scuole medie e dai licei. E se uno è contrario è perché si droga o perché si fa. Questo è quello che dicono gli studenti che si lamentano di avere la polizia dentro la scuola.